as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo qui su Radio Città Fujiko 103.1 in FM. C'è stata la settimana dedicata al lavoro, c'è stato il 25 aprile, il 1 maggio, ieri è stato il 2 maggio, poi ne parleremo alla fine della puntata, nelle conclusioni. Oggi abbiamo deciso di dedicare questa puntata a un'avvertenza che per il territorio di Bologna è stata un'avvertenza molto sentita. Sto parlando della Saga Coffee, l'avvertenza della montagna ci ha tenuto sulle spine per tanti mesi. Avevamo vissuto l'avvertenza della FIAC, speravamo che non accadesse quello che è successo a Sasso Marconi, ai nostri compagni, ossia che l'azienda chiudesse, venisse completamente eliminata quella fabbrica in quella zona industriale. Sentiremo Samuele Lodi, che è il segretario regionale della FIOM, il quale ha seguito questa avvertenza. In realtà è stata un'avvertenza seguita molto dalla regione. Giustamente Samuele, essendo segretario della FIOM regionale, è stato in prima linea con i lavoratori sempre, tutti i giorni. Sentiamo da lui come è finita e sentiamo questa intervista, che lui ci spiega adesso quello che è accaduto, come è andata l'avvertenza e i risultati che si sono ottenuti. Sentiamo un pezzo bellissimo, un nuovo pezzo della banda popolare Emilia Rossa insieme ai Modena City Ramblers. Lei, ascoltate questo pezzo e poi ci sentiremo per l'intervista a Samuele Lodi, segretario regionale della FIOM, sulla Saga Coffee. Fidanzata o un amante, una ragazza appena risvegliata al canto d'una piazza soleggiata. È lei che è bastonata, inseguita e braccata, è lei che si rivolta sopra ogni barricata, è lei che è incatenata, tradita e imprigionata, che ci insegna a non mollare e non l'abbandonare mai più, mai più. Mi tesserò di lei un profondo omaggio, o frutto delicato, fior selvaggio, un albero imponente. Sincera e delicata, una rosa, il nome suo tenete ben presente, è rivoluzione permanente. Allora, siamo qui con Samuele Lodi, segretario regionale della FIOM. Con te volevamo parlare di Saga Coffee. Un accordo, se ne è molto parlato sui giornali, c'è stata un'ottima soluzione del problema. Volevamo chiedere da te, insomma, qualcosa di più specifico. Ce ne siamo occupati in diverse puntate e volevamo che tu ci spiegassi un po', insomma, cosa consiste l'accordo che sei riuscito alla fine a ottenere e come sta andando avanti tutta la questione. L'accordo relativo alla crisi della Saga Coffee e quindi alle 200 tra lavoratrici e lavoratori coinvolti, ricordiamoci che l'80% circa sono donne, è stata una vertenza molto, molto lunga, molto dura, che si è conclusa, noi pensiamo, ma l'esito tra l'altro del referendum lo ha in qualche maniera confermato, si è concluso con un accordo estremamente positivo. Partendo appunto da una situazione molto, molto negativa, che era quella della multinazionale di Bergamo di cessare le attività nello stabilimento di Gaggio Montano. A quel punto lì è evidente che noi come organizzazioni sindacali, in particolare come FIOM, ci siamo posti un unico obiettivo, che era quello della salvaguardia occupazionale, che significava avere la permanenza di un'attività in quello stabilimento, perché è evidente che noi non possiamo pensare di impoverire ulteriormente la montagna, l'Appennino. In questi anni già è stato impoverito decisamente troppo e quindi abbiamo la necessità di mantenere aziende anche in quei territori, mantenere l'occupazione, preservare appunto l'occupazione per le lavoratrici e per i lavoratori e comunque per coloro che eventualmente non fossero stati nelle condizioni di rientrare nel progetto di reindustrializzazione, avere, diciamo così, un accompagnamento verso percorsi di anticipo della pensione che fossero assolutamente tutelanti. Quindi noi, come ci siamo posti fin dal primo giorno, abbiamo detto che nessuno doveva essere lasciato solo. Tra coloro che dovevano rientrare nel progetto e dovevano essere dal nostro punto di vista il maggior numero possibile tra lavoratrici e lavoratori e coloro invece che legittimamente decidevano altro per la propria vita. Ripeto, è stata una trattativa molto, molto lunga, molto complicata, determinata dal fatto anche che è stata una trattativa nella quale noi ci trovavamo di volta in volta a confrontarci, uno con l'azienda che aveva deciso di chiudere e due invece con l'azienda che aveva deciso di reindustrializzare, e solo alla fine in qualche maniera abbiamo unito il tavolo e abbiamo fatto l'accordo complessivo. E quindi è evidente che anche dal punto di vista del percorso non è stato semplice. È altrettanto evidente che il tutto è stato reso possibile in particolare dalla straordinaria resistenza di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che in un contesto ambientale, climatico non semplice hanno mantenuto il presidio permanentemente per tutta la durata della vertenza. Quindi è evidente come il stragrande merito di questa vertenza è legato alla loro resistenza. Dopodiché, per essere anche, diciamo così, schematici per rappresentare quello che è l'accordo, diciamo che 150 tra lavoratrici e lavoratori verranno ricompresi nel nuovo progetto industriale e quindi su un numero di 200-150 sicuramente è un obiettivo molto, molto importante. Il cosiddetto piano sociale, quindi contrattato con l'azienda che ha deciso per la chiusura, quindi il gruppo Saga, piano sociale per accompagnare per aiutare quelle lavoratrici e quei lavoratori che non rientrano nel piano industriale di accompagno alla pensione, è un, diciamo così, un accordo sociale importante, perché c'è un percorso di cassa integrazione integrato diciamo così in maniera molto significativa da parte dell'azienda, e poi dopo, quando ci sarà l'accesso alla NASPI per queste lavoratrici e per questi lavoratori, l'incentivo è sicuramente significativo. È evidente a tutti che stiamo parlando comunque di persone, di lavoratrici e di lavoratori che perderanno il proprio posto di lavoro, però vista la platea assolutamente ristretta, perché appunto 150 rientreranno nel piano di reindustrializzazione, riteniamo che sia la soluzione migliore, anche perché comunque accederanno a questo percorso sociale, diciamo così, solo coloro che lo vorranno fare, quindi attraverso il criterio della volontarietà. Ecco, quindi rispetto ciò che era stato l'inizio di questo percorso a inizio di novembre, in cui le prospettive sembravano veramente molto, molto negative, riteniamo che il risultato ottenuto sia stato estremamente, estremamente importante. Dopodiché, come connotazione politica generale, è evidente come noi nel nostro paese abbiamo un problema nel rapporto con le multinazionali, perché le multinazionali fondamentalmente possono decidere il bello e il cattivo tempo delle nostre attività produttive nel nostro paese, senza fondamentalmente vincoli legislativi. Dobbiamo dire la verità che l'istituzione regionale, quindi la regione Emilia-Romagna, è stata sempre al tavolo e ha dato un contributo fondamentale alla riuscita di questa vertenza. Diciamo però che non è usuale trovare un'istituzione così partecipe e che contribuisce in maniera così fattiva al risultato positivo di questa vertenza. In generale, appunto, abbiamo una legislazione che non ci aiuta, e quindi questo dovrebbe portare una riflessione anche al governo o ai nostri governi che succederanno, rispetto al fatto che noi dobbiamo effettivamente porre dei limiti alla assoluta libertà che hanno le multinazionali nel nostro paese. Una cosa ti volevo chiedere: questa nuova azienda che si è impegnata a reindustrializzare la Saga Coffee, cosa farà? Che prodotti faranno? Allora, saranno due tipi di produzioni, tant'è che costituiranno la Nuco due imprenditori distinti, uno nella lavorazione della lamiera e l'altro nella lavorazione e nel riciclo e nell'ambito dell'economia circolare per quanto riguarda le plastiche. Quindi è un progetto che, per quanto riguarda in particolare il tema che sarà la produzione principale dell'economia circolare nell'ambito della plastica, pensiamo che anche dal punto di vista innovativo possa essere un progetto estremamente importante e di riferimento per l'intero territorio bolognese. Per quanto riguarda invece la questione sindacale e contrattuale, la FIOM nell'accordo è previsto che rimanga la FIOM, che tipo di contratti applicheranno? Anche questo non è stato un aspetto che abbiamo affrontato nell'ultima fase chiaramente della trattativa, ma non è stato per nulla semplice, perché evidentemente tra i due imprenditori, quello che avrà la componente principale dell'attività, quindi la lavorazione della plastica, aveva l'intenzione di passare al contratto della gomma plastica. Noi, anche per senso, anche e soprattutto per senso di responsabilità verso quelle lavoratrici e quei lavoratori, abbiamo detto che la FIOM voleva continuare a seguire quell'azienda, voleva continuare a seguire quelle lavoratrici e quei lavoratori. Quindi abbiamo chiesto in maniera molto forte, molto decisa, di mantenere il contratto di Federmeccanica, e a questo alla fine, anche qui con un contributo e un apporto della regione importante, abbiamo convinto l'azienda, e quindi continueranno ad avere applicato queste lavoratrici e questi lavoratori il contratto di Federmeccanica. Quindi anche questo è un aspetto importante. Speriamo che quelli della gomma plastica non si arrabbino. Sì, esatto, c'è questo aspetto. No, riteniamo di no. È chiaro che questa è stata comunque, questa informazione e questa discussione è stata fatta anche in ambito CGL, quindi non ci sono state da questo punto di vista nessun tentativo di condizionamento, di pressione o di critica. Perché? Perché tutti hanno riconosciuto che quelle lavoratrici insieme alla FIOM hanno portato avanti una vertenza molto difficile, molto complicata, e quindi era normale, naturale che continuasse la FIOM a seguire queste lavoratrici e i lavoratori. Tu hai parlato del problema delle multinazionali. Esiste una legge che fondamentalmente ha fatto questo governo, che la FIOM ha giudicato veramente, diciamo, irricevibile, perché comunque, anzi forse peggiora la questione della delocalizzazione delle multinazionali. La FIOM che intenzioni ha? C'è quella proposta della GKN, che dal mio punto di vista è un'ottima proposta, che però non è passata chiaramente. La FIOM ha un suo punto di vista, una normativa da portare avanti? Il punto di vista della FIOM è quello che intanto l'intervento legislativo di questo governo è né più né meno di una proceduralizzazione dei licenziamenti, cioè quindi non ci sono vincoli posti alle aziende. C'è un tempo messo prima dell'apertura, per esempio, delle procedure per i licenziamenti collettivi o per le casse integrazioni di cessazione dell'attività, quindi prima di prendere la decisione formale c'è un periodo nel quale l'azienda ha il vincolo di presentare documentazioni alle istituzioni e alle organizzazioni sindacali, ma non sono stati posti dei vincoli formali, ufficiali alle multinazionali. E quindi noi continuiamo a ritenere che ci debba essere un intervento governativo forte su questo ambito, cosa che stiamo vedendo per esempio anche nell'ambito molto impattante, sarà molto impattante, molto pericoloso nel nostro paese, nell'ambito dell'automotive, nel senso che noi abbiamo a che fare nel nostro paese in particolare con Stellantis. È giusto ricordare che quando si parla di automotive, però, nel nostro paese non possiamo parlare solo di Stellantis, ma parliamo di tutta la filiera e di tutta la componentistica, quindi un comparto che riguarda più o meno 350.000 lavoratori nel nostro paese. Quindi è evidente, ecco, che anche nel confronto con Stellantis, che tra l'altro è iniziato proprio in questi giorni, avendo incontrato proprio in questi giorni l'amministratore delegato Tavares, però noi abbiamo bisogno qui che ci sia un intervento del governo, cioè il governo sul tema delle politiche industriali e quindi in particolare sul tema dell'automotive non può essere uno spettatore passivo, ma deve essere un attore protagonista, e stando al tavolo insieme al sindacato e insieme alle aziende, e ripeto, ponendo dei limiti con degli interventi legislativi. Certamente, speriamo che accada. Ti ringraziamo, Lodi, per la tua intervista che ci hai concesso, e ci sentiamo per la prossima avvertenza. Grazie a voi, a presto. Ciao. Ciao. Era 2 maggio. Io ho avuto paura di morire. Campo Kulikovo è stato come un centro, come un sede, come un nido di antifascismo a Odessa. Accosti l'orecchio, vuoi ancora soffrire? Le grida strazianti di questo morire, di abusi, torture, silenzi e vergogne, di loschi uncinati, di topi, di fogna. Loschi uncinati di topi di fogna. 3.000 nazifascisti, il suo compito era cancellare sede di antifascismo. Forte era il vento, ma senza più fiato. Con i rifugiati dentro al sindacato. Lasciati ammazzare in santa pazienza dalla ferocia dell'indifferenza. Dalla ferocia dell'indifferenza. Un cocktail molotov sulla finestra e è stata chiusa acqua, non c'era acqua. È quasi l'alba nel cuore di Odessa, che dopo il 2 maggio non è più la stessa. Lo trasmetteranno le penne civili ed ora balliamo, prendiamo i fucili. Ed ora balliamo, prendiamo i fucili. Oggi come allora non passerà. Ha trovato suo marito solo per anello sudita, perché suo viso era tutto sanguinato. Poi è arrivato un fumo tossico che non dava possibilità di respirare, era molto pericoloso. Scappare dalle finestre, ma purtroppo c'erano questi nazifascisti che cercavano sparare. Questa è una storia di strage annunciata. Le vostre menzogne l'hanno coltivata. La bestia più nera è di nuovo tornata e come in passato sarà combattuta. E come in passato sarà combattuta. Ufficialmente c'erano 50 persone persi nella casa dei sindacati, significa che sono stati morti. E secondo me più di centinaia di persone sono stati morti proprio a casa dei sindacati. Anche poi quando sono uscita ho visto questi visi sorridenti, questi visi, come fosse non erano le persone, non erano umani, che urlavano bravo, che urlavano abbiamo vinto, che urlavano bruciate i russi, ma siamo tutti lì, sono stati tutti cittadini ucraini. Cantavano in ucraino e saranno sorridenti quando quando una stanza bruciava, quando le gente cadevano su finestre cercando salvarsi. Io capisco che sono stata, io e qualche mio amici che hanno riuscito a salvarsi, siamo stati proprio fortunati, perché da questa casa era troppo difficile uscire vivi. Avete ascoltato l'intervista a Samuele Lodi? Per chi si fosse collegato solamente adesso, ricordo a tutti che potete ascoltare la nostra puntata anche in podcast sulla pagina Il Pane e Rose di Facebook. Ora, ieri è stato il 2 maggio. Tutti quanti i compagni sanno che il 2 maggio per noi è una data triste. Dal 2014 io ogni 2 maggio fondamentalmente sono davvero molto molto triste per quello che è accaduto a Odessa. Infatti abbiamo ascoltato la canzone, sempre della banda, dedicata alla strage di Odessa. Ora, io voglio essere chiaro, anche in altre puntate l'ho detto, la guerra che Putin sta facendo all'Ucraina è una guerra imperialista. Non c'è nessuna giustificazione a quello che è accaduto, soprattutto all'attacco a Kiev, a Sumi, e anche come si è svolto dalla Crimea. Sono morti tantissimi civili che non hanno nessuna colpa. Però dobbiamo anche ricordare cos'è l'Ucraina oggi, e per capire cos'è l'Ucraina oggi, per capire tutti quelli che sostengono che in Ucraina in realtà non c'è una democrazia alla pari di quello che accade in Russia, se non anche peggio, non possiamo non ricordare i fatti di Odessa. Io invito tutti a andare a informarsi. 2 maggio 2014, la strage all'interno del sindacato, della casa del sindacato di Odessa. Per noi che facciamo attività nel sindacato, quel giorno fu una giornata drammatica. Ricordiamo che il giorno prima avevano osato festeggiare il 1 maggio, il governo provvisorio di allora aveva invitato a non festeggiare il 1 maggio, e dopo quel 1 maggio non si è potuto più festeggiare, perché Poroshenko poi abolì la festa del 1 maggio. Dal 2014 che in Ucraina non si può festeggiare il 1 maggio ed è vietata come festa, come è vietata anche il 9 maggio, il 25 aprile ucraino. Sfidarono i fascisti, il 1 maggio scesero e manifestarono, il 2 maggio erano ancora lì con dei banchetti, un presidio davanti a casa dei sindacati, e gliele fecero pagare. Arrivarono da tutta l'Ucraina, quella maledetta partita a Odessa, allo stadio, uscirono dallo stadio e attaccarono casa dei sindacati, bruciarono tutto. Gli incidenti possono accadere. L'attacco fatto da Forza Nuova e dei Novax, la CGL, sarebbe potuto essere una strage, bastava avessero lanciato una molotov. Se all'interno c'erano delle persone del sindacato, era vuota la CGL di Roma, si sarebbe potuto creare veramente una strage anche lì. La differenza è che dopo Roma sono stati arrestati, continuano gli arresti. Dopo Odessa le persone che vennero arrestate furono le vittime, dovettero scappare, chi si salvò. Nella canzone ascoltiamo la voce di una che si è salvata, che oggi in Italia sono tantissimi quelli che dovettero scappare e fuggire in Italia, in Germania, in Francia e anche in altri paesi del mondo. Le vittime furono trasformate in carnefici, e questo per noi è inaccettabile. Certamente, ripeto, non c'è nessuna giustificazione alla guerra imperialista di Putin, però senza giustizia non ci sarà mai la pace. Io penso che se in Ucraina un giorno qualcuno comincerà a fare giustizia di quello che è accaduto dal 2014 in poi, molto probabilmente si potrà arrivare alla pace. È una speranza che tutti quanti noi abbiamo. Ci sentiamo per le prossime puntate. Salve a tutti.